scacciare i demoni. Sembra che il più grande obiettivo nella vita di alcuni credenti in Cristo sia scacciare i demoni o spiriti maligni. Vi sono varie opinioni in merito, se sia lecito oppure no, se questo ministero sia opportuno o meno. Una cosa è certa, scacciare gli spiriti maligni o i demoni non è stata una iniziativa umana, ma è un ordine che Gesù stesso diede ai suoi discepoli. Ecco cosa leggiamo nel Vangelo di Matteo. Questi sono i 12 che Gesù inviò dopo aver dato loro questi ordini. Non andate tra i gentili e non entrate in alcuna città dei samaritani, ma andate piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Andate e predicate, dicendo, il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, mondate i lebbrosi, risuscitate i morti, scacciate i demoni, gratuitamente avete ricevuto. Gratuitamente date, Matteo 10, 5 a 8. Proprio per questo mandato, i discepoli andarono e tornarono con allegrezza, dicendo, Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel nome tuo, Luca 10 e 17. Inoltre, poco prima di salire in cielo, Gesù diede quest'ultimo ordine ai discepoli. Andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Chi ha creduto ed è stato battezzato sarà salvato. Ma chi non ha creduto sarà condannato. E questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno nuove lingue. Prenderanno in mano dei serpenti, anche se berranno qualcosa di mortifero, non farà loro alcun male. Imporranno le mani agli infermi e questi guariranno. Marco 16, 15, 18. Proprio a causa di questi brani della Scrittura è molto difficile pensare che scacciare i demoni sia un ministero inopportuno o illecito. Vi sono aspetti di questo ministero che però non vengono messi in rilievo e che invece è opportuno conoscere per il bene dei singoli credenti e della Chiesa. Contrariamente, altri credenti ritengono che il compito di un figlio di Dio non sia quello di scacciare i demoni o spiriti maligni, ma quello di riposare sulle promesse di Gesù Cristo. In merito, e si citano la Scrittura, sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi. Giacomo 4:7. Poiché molto probabilmente queste posizioni sono vere entrambi, prenderemo in esame solo quegli aspetti che occorre conoscere riguardo al ministero di scacciare i demoni. Come per ogni dono o compito, l'autorità di scacciare i demoni non è data a tutti. È vero che Gesù ha dato come segno di riconoscimento di aver creduto in lui di scacciare i demoni, ma come per tutte le verità, Gesù ha espresso un principio e non ha esteso questo compito a tutti i credenti. L'Apostolo Paolo lo ha detto molto chiaramente riferendosi ai doni. E Dio ne ha costituiti alcuni nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come dottori, poi ha ordinato le potenti operazioni, quindi i doni di guarigione, i doni di assistenza e di governo, e la diversità di lingue. Sono forse tutti apostoli, tutti profeti, tutti dottori, hanno tutti il dono di potenti operazioni, hanno tutti i doni di guarigioni, parlano tutti diverse lingue, interpretano tutti, 1 Corinzi mezzogiorno e 28. Perciò, pretendere che il parlare in lingue scacciare i demoni, essere profeti, siano doni obbligatori da possedere a dimostrazione del fatto che si sia posta la propria fede in Gesù, è un estremismo tipico dei fanatici o estremisti. Se occorre sobrietà e saggezza nella vita cristiana, quanto più ne occorre per ciò che riguarda i doni dei credenti. Sbagliare valutazioni in questo settore infatti può essere molto pericoloso e a volte anche fatale. Nel libro degli Atti, dove vengono narrati i primi anni dell'espansione del Vangelo, è descritto un episodio molto significativo. Ora alcuni itineranti esorcisti giudei tentarono di invocare il nome del Signore Gesù su coloro che avevano gli spiriti maligni, dicendo «Vi scongiuriamo per Gesù, che Paolo predica». E quelli che facevano questo erano 7 figli di un certo Sceva, un capo sacerdote giudeo. Ma lo spirito maligno rispose e disse, «Io conosco Gesù e so chi è Paolo, ma voi «Chi siete?» Quindi l'uomo che aveva lo spirito maligno si avventò su di loro e, sopraffattili, fece loro tal violenza che fuggirono da quella casa, nudi e feriti. Atti 19, 13-15. Questo episodio mette in evidenza quanto sia pericoloso attribuirsi un'autorità quando non la si possiede. I giudei che furono assaliti dall'uomo che aveva lo spirito maligno erano degli esorcisti, cioè persone che avevano già scacciato degli spiriti maligni. Eppure in questa occasione lo spirito maligno fu più forte, al punto da farli fuggire. Nonostante essi invocassero il nome di Gesù Cristo per scacciare il demone, questo gesto non servì proprio a nulla. L'episodio ci insegna che prima di scacciare degli spiriti maligni occorre accertarsi se si ha tale autorità da parte di Dio. Altro fattore da tener presente in merito a scacciare i demoni è che questa pratica di per sé non è completa. Esattamente al pari di quella di parlare in lingue, infatti in merito alle lingue occorre un interprete. Alcuni credenti desiderano ardentemente il dono di scacciare i demoni come se questo ufficio fosse completo e il migliore che ci sia. Ma oltre a non essere il maggiore, esso nasconde anche una insidia. Quando si cerca smisuratamente la potenza dello spirito, di fatto ci si maschera per camuffare l'ambizione personale, un desiderio di servire la nostra presunzione, di impressionare, di dominare. Che poi non sia un dono completo quello di scacciare i demoni, lo ha detto Gesù con una parabola. Ora, quando lo spirito immondo è uscito da un uomo, vaga per luoghi aridi, cercando riposo e non lo trova. Allora dice, ritornerò nella mia casa da dove sono uscito. Ma quando giunge la trova vuota, spazzata e adorna. Va allora a prendere con sé altri 7 spiriti, peggiori di lui, i quali entrano e vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Così avverrà anche a questa generazione malvagia. Matteo mezzogiorno 43, 45. Dunque, quando uno spirito immondo è stato scacciato da una persona, questa non è stata definitivamente liberata, perché vi è la possibilità che questo spirito rientri con altri spiriti maggiori di lui, nel luogo dove dimorava. Questo aspetto dovrebbe far riflettere chi crede di avere il compito di scacciare gli spiriti e interessarsi in seguito che la persona resa libera venga definitivamente liberata dal possesso di forze demoniache. Perciò, se si cerca veramente il bene del prossimo, se si desidera onorare Dio e glorificarlo, si deve predicare alle persone la persona di Gesù, si deve invitare le persone ad accettarlo come Salvatore e Signore delle loro vite. Solo con questa accettazione le persone saranno veramente libere per sempre, come disse lo stesso Gesù, se il Figlio vi farà liberi sarete veramente liberi. Giovanni 8,36. Quel veramente liberi significa che vi è una libertà che non è tale, e una di queste è quando uno spirito è uscito da una persona. Questo aspetto dovrebbe indurre chi cerca il dono di scacciare gli spiriti a desiderare aspetti spirituali molto più efficaci e duraturi, quali la predicazione della parola di Dio e l'esercizio dell'amore. Secondo la parola di Dio, non vi è niente di più importante e duraturo. Un ultimo aspetto da ricordare riguardo a scacciare gli spiriti è che questo esercizio non è sinonimo né di spiritualità né di appartenenza a Dio. Se non lo avesse detto Gesù, io per primo avrei fatto fatica a crederci. Nel discorso del sermone sul monte, Gesù disse, «Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli?» Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome e nel tuo nome scacciato demoni e fatte nel tuo nome molte opere potenti? E allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Matteo 7, 21-22. Questo discorso del Figlio di Dio fa parte della conclusione di un lungo insegnamento in merito a molti settori della vita. Gesù aveva messo in evidenza che esiste la falsa spiritualità e ordinava ai suoi discepoli di essere coerenti con la loro professione di fede, per cui conclude che nel giorno del giudizio sarà salvato solo chi avrà compiuto la volontà di Dio. E a questo punto che coloro che scacciavano gli spiriti, rivendicano l'autorità di entrare nel regno dei cieli per il loro dono e ministero. Ma Gesù rivolse a loro dure parole perché non avevano fatta la volontà di Dio, scacciandoli nelle pene eterne. Tremenda delusione, ma non troppo. Gesù non aveva detto che lo scacciare gli spiriti era sinonimo di spiritualità e di appartenere a Dio, anche se suo era l'ordine. Perché in definitiva scacciare gli spiriti equivaleva ad esercitare un mestiere, un compito, che non richiedeva necessariamente la nuova nascita. E, come per il ministero della predicazione, Gesù ha ordinato che il Vangelo sia predicato, e molti, ubbidienti al suo comando, lo fanno, ma una gran quantità di persone predicano il Vangelo senza averlo accettato o senza aver realizzato la nuova nascita. Nonostante alcune di queste persone che predicano la parola di Dio non siano salvate, il Vangelo porta i suoi frutti perché esso è la potenza di Dio. Il seminatore è solo uno strumento, un mezzo per seminare. Così anche per coloro che scacciano i demoni escono non per le qualità spirituali dell'esorcista, ma perché il nome di Gesù è potente. Questo spiega ciò che Gesù ha detto, e cioè che Satana non può scacciare Satana perché sarebbe diviso contro se stesso, Matteo 5:26. Quando un esorcista scaccia dei demoni non è per una sua intrinseca potenza, ma per l'autorità di Cristo che egli invoca proclamando il nome di Gesù. Non è un demone che scaccia un altro demone, ma è sempre Cristo e soltanto Cristo che scaccia i demoni anche quando chi lo invoca e opera nel suo nome non è un figlio di Dio. Questo obiettivo di scacciare i demoni è una vera e propria seduzione che avrà il suo culmine con la venuta dell'Empio, il quale avverrà per l'azione di Satana, accompagnata da ogni sorta di portenti, di segni e di prodigi bugiardi. 2 Tessalonicesi 2:9. Proprio per questo aspetto, quando i discepoli andarono e tornarono con allegrezza dicendo «Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel nome tuo», Gesù rispose «Ecco, io vi ho dato il potere di calpestare serpenti e scorpioni, e su tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male». Tuttavia, non vi rallegrate del fatto che gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi piuttosto, perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Luca 10:17-19. Ancora una volta Gesù ha messo a fuoco i veri valori. Scacciare gli spiriti può essere una buona cosa, ma per quanto mi riguarda io mi preoccupo di sapere innanzitutto se sono un figlio di Dio, e poi invito e conduco le anime ad entrare nel regno di Dio e a vegliare, dimorando in Cristo per camminare nelle sue vie. Solo così sono sicuro di aver svolto un compito molto più efficace e completo di quello di scacciare demoni e spiriti. Dicembre 2005, Pellero.